Fotogiorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. 160 raid a Gaza, uccisi 27 palestinesi in due giorni. L'azione militare sarà estesa, preannuncia il governo israeliano. Il Brasile in lacrime, umiliato con un 7-1 dai tedeschi nella semifinale di ieri. Si guarda anche agli effetti politici della sconfitta, oltre che ad Argentina e Olanda in campo questa sera. Domani parte in aula al Senato l'esame delle riforme costituzionali, dal 16 il voto sugli emendamenti, ridisegnato il Senato, ma anche e soprattutto il federalismo fiscale, il titolo quinto. A Milano, il giorno dopo l'alluvione, il sindaco Pisapia si scusa con i cittadini coinvolti dall'esondazione del Seveso, che resta comunque un torrente a rischio, situazione verso la normalità, ma molti danni. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete scriverci, come sempre, effettogiorno@radio24.it, e c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Se volete anche il mio account Twitter, Simone Spezia, e infine gli SMS durante la trasmissione 349-238-6666. Iniziamo con gli aggiornamenti dal Medio Oriente. Con un discorso televisivo questa mattina è intervenuto il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, spiegando di aver sentito le fazioni e i leader di Hamas a Gaza. Tutti hanno riferito di essere per la continuazione della tregua e contro l'escalation, ha detto Abu Mazen, ma Israele ha risposto fornendo il numero di razzi lanciati finora dalla striscia di Gaza. Sarebbero 225, di cui 40 già intercettati dal sistema di difesa israeliano Iron Dome. Proseguono quindi i raid aerei dopo che anche a Tel Aviv tre esplosioni sono state avvertite questa mattina e dove i rifugi sono stati riaperti dopo due anni. La campagna militare contro Hamas nella striscia di Gaza si estenderà nei prossimi giorni, ha annunciato il ministro della difesa israeliano, assicurando che il movimento palestinese pagherà caro il lancio di razzi. 1500 i riservisti già operativi, secondo l'esercito israeliano sono invece 160 gli obiettivi di Hamas finora colpiti dall'aviazione, ma tra le 24 vittime ci sarebbe solo un miliziano. Il premier israeliano Netanyahu è intervenuto ieri sera accusando Hamas di usare i civili come scudi umani, l'attacco più sanguinoso a Khan Yunis nel sud della striscia, in cui sono morte 8 persone, tra cui un bambino di 8 anni e 2 adolescenti. Secondo i media arabi, Abu Mazen, presidente dell'autorità nazionale palestinese, avrebbe chiesto questa mattina al presidente egiziano Al-Sisi di intervenire nella crisi. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è un'altra notizia appena battuta dalle agenzie: una madre col figlio di 4 anni e due ragazzi di 12 sarebbero rimasti uccisi in due attacchi israeliani avvenuti proprio a Gaza. Ci colleghiamo con Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Allora, vorrei capire da te quale può essere l'evoluzione della situazione, perché come abbiamo sentito il ministro della difesa di Israele ha detto che l'operazione sarà estesa. Beh, l'unica possibilità è appunto, come ha chiesto Abu Mazen, l'intervento diretto di Al-Sisi, che sarebbe la sua entrée nella grande diplomazia internazionale. Finora hanno lavorato i suoi servizi segreti militari, che di solito hanno sempre tenuto appunto a bada la crisi di Gaza. Ora, se Al-Sisi riuscisse appunto lui in persona, con l'autorevolezza del presidente, del nuovo presidente dell'Egitto, riuscisse a trovare appunto la via per un cessate il fuoco, sarebbe appunto importante per lui e anche importante per questa crisi. Il problema è che adesso è Israele che ha tutto l'interesse a non continuare l'escalation, perché in una regione così volatile, così esplosiva come il Medio Oriente, non serve un'escalation, soprattutto un intervento militare diretto della fanteria, una nuova occupazione di Gaza. Mentre invece in qualche modo Hamas sta vincendo la sua partita, che è una partita tutta sua, sta vincendo la sua partita politica. Ogni razzo che cade su Israele è un motivo di giubilo per il mondo arabo intero, quindi Hamas adesso ha tutto l'interesse a mantenere la crisi fino a questo punto, avendo capito che Israele non ha in realtà intenzione di continuare l'escalation fino all'invasione terrestre di Gaza. Da un punto di vista, se vogliamo, anche di tattica politica, Israele, secondo te, Ugo, si può permettere di non proseguire nell'offensiva su Gaza e non estenderla? In un certo senso no, perché se dei razzi cadranno su Tel Aviv, cadranno colpendo qualcuno, uccidendo qualcuno, nessun governo israeliano si è mai fermato non ha mai continuato per cercare appunto di impedire questa escalation, però c'è anche da dire che non è la prima volta che, anzi è una storia ripetitiva questa di Gaza. Israele ha occupato Gaza per tanti anni, poi se n'è andato, ha occupato, ha bombardato, ha rimandato i soldati dentro Gaza, ha raso al suolo praticamente mezza Gaza, ha eliminato l'economia di Gaza, ciò nonostante ogni volta che Israele se ne va i razzi ritornano. Quindi Israele, è vero che Israele non può non reagire, ma è anche vero che Israele sa perfettamente che qualsiasi cosa faccia, a meno che non radi al suolo l'intera striscia di Gaza, cosa che non è concessa a nessuno, neanche meno a Israele, qualsiasi iniziativa comunque è politicamente pericolosa e fattualmente, militarmente non raggiunge l'obiettivo finale. Grazie intanto ad Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Torneremo a parlare di tutto questo più avanti, da un punto di vista più strettamente militare, se vogliamo, per capire in cosa può consistere questa azione di Israele. Intanto ci spostiamo in Brasile, anche se virtualmente, un Brasile naturalmente in lacrime per questa sconfitta, questa vera e propria umiliazione di ieri da parte della Germania. Carlo Genta in studio con me, ciao Carlo. Ciao Simone, psicodramma collettivo. Eh beh sì. D'altra parte il Brasile è stata la grande bugia meglio nascosta di questo mondiale. Insomma, abbiamo sempre saputo che non si trattava di una grande squadra. Ha due grandi giocatori, che sono Neymar e Thiago Silva. Entrambi non c'erano ieri sera. È una squadra stressata da un'attesa irreale, da un'attesa che avrebbe ammazzato chiunque, psicologi e psicologhe e tutto quanto, era impossibile sostenere questo tipo di pressione. I tedeschi sono arrivati lì, hanno fatto la Germania, perché la Germania è una grandissima squadra e ha una grandissima generazione di giocatori pronta per vincere un mondiale, e semplicemente il Brasile è crollato, perché è chiaro che in una semifinale mondiale un risultato di questo tipo non esiste al mondo, ma non esiste al mondo nemmeno all'interno di un mondiale. Abbiamo visto qualunque cosa dentro a questo mondiale, ma 7-1 è una cosa d'altri tempi, soprattutto sì, in una semifinale mondiale. Quindi è chiaro che questo ha spiegazioni calcistiche certamente, ma più che altro spiegazioni emotive. Il Brasile è crollato, i nervi del Brasile sono crollati e la Germania insomma, ha dilagato ancora. E ha approfittato, non ha avuto pietà. Non ha avuto pietà. Poi tanto si discute, lo ha fatto poco fa anche Gianluca Nicoletti, su se sia giusto arrivare ai 7 gol. Ma insomma. Che è giusto, perché no? Certo, no. È lo sport, questo è lo sport, gli americani insegnano. Io ti rispetto e vado avanti fino a quando riesco. E quindi 7 gol. Senti Carlo, e poi stasera naturalmente l'altra semifinale, Argentina-Olanda, con un'ipotesi anche di trovarsi una finale europea in Sud America, pensa un po', mai nessuna europea ha vinto un mondiale in Sud America, questa volta potremmo addirittura avere un'ipotesi fondata certamente, l'ipotesi di avere una finale europea che tra l'altro sarebbe un remake di una finale che abbiamo già visto molti anni fa, no? nel 74 Olanda-Germania, allora l'Olanda era più forte, era l'Olanda di Cruyff, vinse la Germania. Stasera sarà invece il remake di un'altra finale, quella del 78, Argentina-Olanda, la vinse l'Argentina, ma sono tutte suggestioni perché ovviamente sono tempi, squadre, modi diversi, e sarà certamente una partita molto diversa rispetto a quella che non abbiamo visto ieri sera, perché dopo mezz'ora la veniva voglia di guardare un film, esatto. ma comunque stasera sarà qualcosa di profondamente diverso e quindi la vivremo in un altro modo. Sarà comunque una grande finale e la mia favorita resta la Germania, anche perché sull'onda emotiva di questo risultato storico credo sarà molto difficile fermare i tedeschi. Grazie. Carlo, lasciamo a voi, come dire, tutte le valutazioni ormai un po' scontate sul tema della linea del rigore, che tra l'altro si potrebbe incrociare proprio in finale, fosse Olanda e Germania, e ci occupiamo invece di una tifosa particolare che potrebbe essere tanto una tifosa dell'Argentina quanto dell'Olanda. Non bastasse il posto per una finale mondiale che c'è in palio, Olanda e Argentina diventa affare di Stato, anzi roba da teste coronate. Sì, perché tra i milioni che stasera punteranno gli occhi verso San Paolo, è lecito chiedersi per chi farà il tifo Máxima Zorrigueita, 43 anni, argentina di nascita, olandese d'adozione e consorte del re d'Olanda, Willem Alexandre. Doppio passaporto e cuore diviso a metà, quindi quello della regina Orange, amante però di tango e mate, ammaliata tentata dalle magie di Robben, ma magari tentata dal tifare per il divino Lionel Messi. Del resto non è la prima volta che l'incrocio tra l'albiceleste e l'arancia meccanica muove gli assi della geopolitica. Ben più drammatica la finale vinta dagli argentini nel 1978 a Buenos Aires, che coincise con l'apogeo della dittatura del generale Videla. Mario Kempes, capocannoniere di quel mondiale, ricorda così quel trionfo all'ombra del potere militare. Ma noi siamo andati a giocare al calcio, non ci importava chi fosse al governo. E le abbiamo dato allegria a quella gente, che non aveva piacere di essere sottomessa al governo che c'era. Allora ancora non si sapeva molto di quanto accadeva sotto la dittatura. C'erano proteste, c'erano problemi, però non a livello di quando si sollevò il coperchio sul pentolone. Lì si è saputo tutto il brutto che era stato fatto. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo questo capitolo mondiale, anche se ci torneremo più avanti per parlare soprattutto degli effetti politici del calcio, della sconfitta del Brasile. Brasile che tra l'altro tra poco andrà al voto tra un paio di mesi. E ci spostiamo a Milano. Il giorno dopo l'alluvione e l'esondazione del Seveso, Raffaella Calandra si trova nelle zone colpite. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno, sì sono proprio qui in quella che ieri era un intero lago praticamente, e qui dopo l'alluvione resta ora la polvere sulle strade, sulle auto, sui muri. Dopo l'acqua alta di ieri, ancora una volta qui nel cuore di Milano restano le tracce del fango spalato, allontanato da cantine e primi piani, e ora che il sole splende su Milano restano i sacchi di sabbia e le paratie di legno ancora una volta riportate fuori a protezione degli ingressi e a memoria dell'ultima ed ennesima esondazione del fiume Seveso, che ha mandato sott'acqua la capitale economica del paese, la città che ospiterà l'Expo l'anno prossimo. Il giorno dopo la rabbia dei residenti e dei commercianti è alta, nonostante le scuse del sindaco Pisapia e la promessa anche di cercare di risarcire. Come alta è il segno dell'acqua sulle pareti, 6,5 milioni i danni stimati per il lavoro perso, ma molti di più, e come si calcolano, dice la gente, i commercianti del posto, tutti quelli che abbiamo perso in questi 20 anni, perché le esondazioni del Seveso sono numerose e costanti, e ogni volta che piove qui i commercianti ritirano fuori i sacchi di sabbia e aumenta l'angoscia. E così capiamo bene l'esasperazione di chi, come la signora Maria Rizzuti, che è qui con me, è titolare da 22 anni di una bar qui in via Stelvio, angolo via Lario, che ieri era un intero lago. Signora, ecco, voi siete esasperati perché questa è soltanto l'ennesima esondazione. Sì, buongiorno, io sono qua da 22 anni, ma dire esasperati è poco, vorrei trovare una parola ancora più forte, non so se esiste, perché dire esasperati è poco. Io subisco tutto questo da 22 anni e non ho mai trovato nessuno, né un vigile, né uno della regione, né il sindaco, né chi, mai qualcuno che è venuto a dire che cosa è successo, a che punto siamo, che cosa facciamo. Non mi vengono a dire che anche questa volta per un po' di acqua siamo a questo livello. Noi tutte le volte che piove andiamo a dormire con la paura che ci svegliamo e troviamo il bar allagato. Tutto questo da 22 anni. Che cosa ci vuole risarcire? In che modo ci vuole risarcire? Perché se ci deve risarcire, mi deve risarcire anche il morale, che non si riposa, non si dorme, non si vive. Allora, noi ringraziamo Raffaella Calandra e ringraziamo anche la signora per il suo racconto e per il suo sfogo, e passiamo a parlare di politica e di riforme. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi, che si trova a Roma, perché finalmente abbiamo qualche data e probabilmente qualche voto in arrivo finalmente sulla riforma costituzionale. Alessandra, buongiorno. Eh sì, buongiorno, è così la notizia, che è stata decisa la tempistica sulle riforme. Il DDL del governo approda nell'aula del Senato domani pomeriggio, da mercoledì comincia il voto sugli emendamenti, così ha deciso questa mattina la conferenza dei capigruppo del Senato, e dunque i lavori della Commissione Affari Costituzionali si concludono oggi con le votazioni. Una decisione che però scontenta i cosiddetti dissidenti, che avevano chiesto un rinvio di una settimana per consentire un approfondimento maggiore, così come la Presidente del gruppo visto Selle, componente della commissione Loredana De Petris, che protesta le richieste della minoranza, dice di poter ponderare il testo, non sono state minimamente prese in considerazione, si è voluto forzare in modo irresponsabile. Anche per i 5 Stelle l'accelerazione imposta è inaccettabile. Fibrillazioni ci sono anche in casa Forza Italia, dove quasi la metà dei senatori non gradisce l'accordo sul nuovo Senato. Il capogruppo Romani ha convocato per domani alle 10 un'assemblea dei senatori azzurri, alla quale dovrebbe partecipare anche Berlusconi. Ma intanto i relatori hanno presentato sul nuovo Senato questa mattina l'emendamento che recepisce l'accordo tra maggioranza e Forza Italia sulla scia del patto del Nazareno, previsto che i senatori non vengano eletti dai cittadini ma dai consigli regionali in proporzione della consistenza dei gruppi consigliari. Invece, tra le altre importanti modifiche apportate ieri, il nuovo assetto del federalismo fiscale con la modifica degli articoli dal 116 al 119 della Costituzione. Da Roma è tutto. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Prima di tutto una notizia appena battuta dalle agenzie: le acque ingrossate di questi giorni hanno restituito il corpo di una donna di 85 anni trovata morta in un canale a Inzago nel Milanese intorno alle 11. Più tardi a mezzogiorno al 118 è giunta la segnalazione di un corpo nel fiume Lambro che i soccorritori stanno cercando. Naturalmente vi aggiorneremo appena avremo ulteriori notizie. In Medio Oriente, 160 i raid a Gaza, sono stati uccisi 27 palestinesi in 2 giorni. Di poco fa la notizia che è stata uccisa anche una madre con un bambino di 4 anni. L'azione militare sarà estesa, preannuncia il governo israeliano. Domani parte in aula al Senato l'esame delle riforme costituzionali. Dalle 16 il voto sugli emendamenti, ridisegnato il Senato, ma anche e soprattutto il federalismo fiscale. Le morti accertate sul lavoro nel 2013 sono state 660, in ribasso di circa il 21% rispetto all'anno precedente. Lo rileva l'INAIL nella sua relazione annuale. E adesso, per continuare a parlare della partita di ieri, vogliamo guardare l'aspetto politico, perché può sembrare quasi un paradosso, ma in un paese come il Brasile una sconfitta, soprattutto una sconfitta di quelle dimensioni, con un 7-1, ha anche un impatto politico. Saluto Paolo Magri, che è direttore dell'ISPI, buongiorno. Buongiorno. E che si occupa anche di Brasile, insomma, una persona che conosce profondamente il paese. Innanzitutto le chiedo di spiegarci questo paradosso. Beh, è un paradosso per modo di dire, nel senso che i legami fra sport e politica interna e anche politica internazionale sono sempre esistiti. Mondiali e olimpiadi sono sempre stati o una vetrina, a volte anche una vetrina di regimi, o segnavano momenti di transizione. Pensiamo ai mondiali in Spagna, nel momento in cui la Spagna sta lasciando il franchismo ed è al segnale del ritorno in scena della Spagna, o pensiamo alle Olimpiadi invernali di Sochi, che erano il momento per Putin di mostrare, ahimè poco prima della Crimea, la gloria e il prestigio della Russia. Quindi c'è un legame sempre stato, sono sempre stati utilizzati. In Brasile certo ha un valore più forte, questo non possiamo nasconderlo. Perché in Brasile... E quale può essere questo impatto? Ma l'impatto innanzitutto un'immagine sull'orgoglio nazionale, l'immagine del bambino che piange o del ponte crollato qualche giorno fa con sotto un pullman, sono immagini che rimangono nella memoria collettiva del brasiliano e non solo, come la costa arenata al giglio, in un momento in cui il Brasile sta passando in una fase economica più delicata, quindi può incidere sulle aspettative dei consumatori, sull'entusiasmo che c'è sempre stato, ma soprattutto un valore politico, si vota fra 2 mesi. Ci sono state le proteste prima dei mondiali, e poi la Rousseff e il governo sono stati molto abili nel dire godiamoci il gioco, quello che conta è il calcio, abbandoniamo le polemiche e difendiamo il paese. Purtroppo il calcio non c'è stato, il calcio è stata la grande delusione. Quindi si vota fra 2 mesi e la Rousseff, che stava rimontando nei sondaggi, era al 60% un anno fa, è scesa al 30%, in questi giorni è ritornata al 35-36%, rispetto a questo risultato pagherà un po' le conseguenze. Pagherà le conseguenze sapendo che nei precedenti mondiali ospitati in Brasile non c'è stata correlazione fra il risultato del paese calcistico e le elezioni, ma questo è stato un caso diverso. Mai c'erano state polemiche prima, mai c'era stato fastidio nei confronti della Coppa, e quindi in questo caso può rischiare un po' di più. Ecco, proprio A proposito delle tensioni sociali, no? Abbiamo detto, ne abbiamo viste tante, sfociate anche in scontri, in incidenti, in violenze e in vittime, prima della Coppa, poi appunto Rousseff ha detto prendiamoci questa sorta di pausa di riflessione, no? Una sorta di tregua mondiale. Quanto si possono rinfocolare queste tensioni nel paese? Posto tra l'altro che è un paese che ospiterà fra 2 anni le Olimpiadi, anche se solo a Rio. No, c'erano proteste diverse, c'erano proteste di opportunismo sindacale per sfruttare il momento, e queste saranno molto contenute, perché non c'è più lo scacco matto al governo per dire se non mi dai dei soldi adesso aumento di stipendio ti blocco i mondiali saranno superati e quindi questo aspetto mancherà. C'erano poi le altre proteste, quelle di gruppi come i Black Blocs che volevano il caos a tutti i costi, che potrebbero alimentarsi perché sanno che la popolazione è arrabbiata, e poi le proteste ispirate da motivazioni politiche. Non possiamo nascondere che dietro molte proteste c'era un interesse politico, far vedere il calo in modo plateale, il calo di popolarità della Rousseff e aumentare le speranze di Aécio Neves, uno dei candidati, e di Campos. Queste proteste, quelle degli incavolati, degli arrabbiati e quelli ispirate politicamente, potrebbero riprendere. Con anche rischi di violenza, quindi? I rischi di violenza, qui stiamo attenti su questo fatto, i momenti di violenza sono stati limitati, cioè c'è stata un'attenzione mediatica, se ci pensiamo adesso esposta, sulle proteste e sui ritardi che poi nella prova dei fatti non si sono verificate, però le proteste dei marginali e dei Black Blocs certo possono sfociare in violenza, questo è sicuramente un rischio che c'è, e dipende anche da chi vincerà alla fine. In questo momento i brasiliani stiano tifando per l'Olanda, perché l'Argentina è un affronto, la Germania sarebbe coronare chi ha messo l'orgoglio in ginocchio, quindi tutto sommato l'Olanda sarebbe un buon compromesso. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, e buona giornata. Grazie a voi. E saluto Vincenzo Antonelli, che è docente di diritto amministrativo alla Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno anche a voi e grazie dell'invito. Vogliamo parlare con lei di questa ipotesi di riforma del titolo quinto. Dico ipotesi perché naturalmente non è ancora passata dall'aula, ma solamente dalla commissione. Tante volte abbiamo raccontato da questi microfoni, non solamente quelli di Effetto Giorno naturalmente, ma più in generale da Radio 24, di quanti difetti avesse il federalismo per come è stato attuato finora e quanti problemi avesse generato. Adesso ci si prova a mettere mano. Tra le altre cose viene scolpita in Costituzione, per così dire, l'idea dei costi standard, che come sapete i costi sanitari, tanti sprechi hanno generato soprattutto in alcune regioni, e vengono riportate sotto l'egida dello Stato come competenza esclusiva altre cose: il coordinamento della finanza pubblica, il commercio con l'estero, produzione, trasporto e distribuzione di energia, grandi reti di trasporto interesse nazionale. Da quel che abbiamo capito, professore, va a sparire anche la cosiddetta competenza concorrente, no? Tra le regioni e lo Stato. Vorrei un suo giudizio generale su quello che stiamo vedendo, almeno per quel che sappiamo fino adesso. Benissimo, il mio giudizio è un giudizio, diciamo, positivo di quello che sta avvenendo. Non dimentichiamo che la Commissione in sostanza ha dato conferma a quello che era la proposta del Premier Renzi, e il disegno di legge costituzionale è anche il disegno di legge che sopprime definitivamente in Costituzione le province. Forse questa è una delle novità più importanti. Per quanto riguarda quello che viene individuato come la riforma del titolo quinto, la proposta Renzi, che poi sostanzialmente è confermata in commissione e credo che sarà poi anche confermata in aula, non è altro che una messa a punto di quello che era l'impianto del vecchio titolo quinto, ormai vecchio perché risale al 2001. E credo che le motivazioni che hanno spinto il governo siano state soprattutto quelle legate all'alto contenzioso costituzionale, e quindi davanti alla Corte Costituzionale, tra lo Stato e le regioni. Il giudizio è quello naturalmente di una statalizzazione, di una verticalizzazione delle competenze, dei compiti, delle responsabilità, naturalmente a favore dello Stato. Questo viene giustificato con una ricentralizzazione, in sostanza, professore. Sì, c'è una ricentralizzazione mobilitazione che viene giustificata naturalmente da parte governativa e con i richiami dell'Unione Europea. Non dimentichiamo mai la lettera della BCE per la soppressione delle province. Non so se questo corrisponde oggi ad una debolezza sul piano istituzionale delle regioni e dei comuni, naturalmente. Ricordo sempre che nel 2001 la riforma fu possibile, fu fatta a maggioranza semplice perché ci fu l'accordo tra la maggioranza parlamentare e il mondo delle autonomie territoriali, delle autonomie locali. Era stata negoziata con le regioni e i comuni. Quelli che sono i grandi assenti di questo dibattito sono proprio le regioni e i comuni. È il Parlamento che sta decidendo e quindi le forze politiche nazionali e statali che stanno decidendo la sorte delle regioni e la sorte dei comuni. E questa è la verità. Allora, la ringrazio per questo primo giudizio, professor Antonelli, magari torneremo a consultarla nel momento nel quale avremo anche le idee un po' più chiare e avremo un testo approvato. Gian Andrea Gaiani, come sappiamo esperto di difesa, editore di Il Sole 24 Ore, buongiorno Gian Andrea. Buongiorno a voi e all'ascoltatore. Siamo ancora sul Medio Oriente, l'ultimo aggiornamento ci parla di 35 morti e 300 feriti, bilancio provvisorio delle vittime degli attacchi sferrati da ieri da Israele a Gaza. Vorrei capire da te quanto può essere estesa l'offensiva di Israele da un punto di vista strettamente militare e strategico. Le autorità israeliane dichiarano che questa operazione non sarà di breve durata, quindi fanno pensare che vogliono continuare a colpire dal cielo le postazioni di lancio dei razzi di Hamas, vogliono continuare a colpire anche con incursioni di forze speciali probabilmente i leader di Hamas. Una eventuale invasione terrestre di Gaza non viene ovviamente esclusa e si vedrà nei prossimi giorni. Certo, Israele ha di fronte a sé una grande opportunità e anche qualche rischio, l'opportunità di chiudere i conti con Hamas. Rispetto alle operazioni precedenti, Hamas non ha più grandi appoggi, lo stesso Egitto di oggi, che è quello del generale al-Sisi, che ha messo fuori legge i fratelli musulmani, movimento di cui anche Hamas fa parte, potrebbe anche trovare positivo il fatto che a Gaza non comandi più Hamas, quindi Israele ha un'opportunità militare che è quella di spazzare via Hamas. Per farlo però dovrebbe fare una lunga operazione casa per casa, dentro Gaza, con tantissime perdite tra i suoi soldati e tantissime vittime civili, un costo politico da pagare molto forte e il rischio dietro l'angolo che, anche spazzato via Hamas, poi il suo posto venga preso da gruppi anche molto più radicali come quelli che in questi giorni hanno proclamato il califfato in Siria e in Iraq. Ti ringrazio, grazie a Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa e editorialista del Sole 24 Ore su questi temi. Gian Andrea, buona giornata. A voi, arrivederci. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Saluto il professor Giuseppe Novelli, che è genetista, è rettore di Tor Vergata e nei laboratori che guida lui si sono fatte delle analisi fondamentali per arrivare al cosiddetto ignoto 1, che poi gli inquirenti hanno identificato come Massimo Giuseppe Bossetti, il presunto assassino di Chiara Gambirasio. Buongiorno professor Novelli. Buongiorno a voi. Allora, naturalmente in queste ore sono tutte indiscrezioni, quindi la teniamo così, la domanda la teniamo generica, però da quel che circola Bossetti avrebbe detto perdo del sangue dal naso normalmente, questo può essere caduto su degli attrezzi che mi sono stati rubati e l'assassino è la persona che mi ha rubato gli attrezzi, è per questo che avete trovato le tracce del mio DNA sul corpo di Yara. Quello che voglio capire da lei, e in questo la domanda assolutamente non è relativa nemmeno a queste dichiarazioni, è se e i campioni di DNA che avete esaminato possono essere relativi a sangue o ad altre parti, per così dire, del corpo, per esempio pelle o peli o cose di questo genere. Guardi, premesso innanzitutto che tutte queste cose sono ovviamente, le analisi iniziali sono state fatte dai RIS e dalla polizia, noi siamo intervenuti 3 anni fa sull'ipotesi, quella famosa del figlio illegittimo, abbiamo stabilito con metodo certo, statistico e poi confermato che l'unica possibilità di attribuire il profilo di DNA dell'ignoto 1 con una persona era quello che era un figlio illegittimo dell'autista di Corno, cosa che è stata confermata e dimostrata e su questo non ci sono più dubbi. Sul discorso che fa lei di carattere generale, cioè quello della possibilità che il DNA di una persona di cui siamo certi sia ovviamente può essere finito su un reperto o su un luogo dove è stato commesso un crimine, è una delle caratteristiche che troviamo sempre ed è la famosa ipotesi della contaminazione di materiale biologico altrui. Questo è chiaro che è un'ipotesi sempre possibile, ma attenzione, la contaminazione può avvenire in più fasi, una fase di trasferimento secondario durante il repertamento oppure durante l'analisi, ma voglio dire con certezza che riusciamo sempre a capire come e quando c'è stata una contaminazione. Quindi se c'è questa ipotesi bisogna poi dimostrarlo, che il sangue di questo signore è finito su un attrezzo, che un'altra ipotetica persona l'ha preso, l'ha utilizzato per compiere un crimine, allora bisogna trovare anche il DNA dell'altra persona. Quello che è certo è che lì ci sono DNA di più persone, ma quell'unico profilo non è misto, cioè non è contaminato da altri, quindi qui ci sono molte persone che parlano senza conoscere gli argomenti, senza aver mai fatto un'analisi forense e questo secondo me... Mi scusi, quello che sta dicendo lei, professor Novelli, è in sostanza che là c'è stata una contaminazione... No, come per la definisce... di Dio, no, non ho detto questo, mi scusi, no, c'è stata, come dire, cose che non ho detto, un contatto di primo livello... No, attenzione. Signori, io ho detto che il DNA è talmente tranquillo e pulito che quel DNA è di quella persona. Adesso il problema è come c'è finito il DNA di quella persona lì? Perché nel DNA non c'è scritto che uno è un assassino, c'è scritto che il tuo DNA è lì dentro. Quindi il punto è come c'è finito lì? C'è, quello che dico, c'è la possibilità che i campioni come quelli che vi siete trovati ad analizzare, come dire, abbiano un grado di purezza diverso a seconda del passaggio, no? Certo, ci sono tutti i sistemi tecnici oggi per appurarlo. Il DNA di quello che è stato chiamato ignoto 1, ok? Corrisponde al signor Bossetti, punto. Questo è l'unico dato certo. Adesso è da capire perché il DNA del signor Bossetti è finito lì, ma questo non lo dice, non può essere scritto nel DNA. Capito quello che voglio dire? Sì. Ma questo sempre accade, io quello dicevo, no? Sì. E per capire ancora meglio, in merito alla purezza del campione, per così dire, c'è un impatto su questa purezza del campione che può avvenire da trasporto, per trasporto oppure no? Io quello dicevo, che qualora ci fossero quello che qualcuno ipotizza come possibile contaminazione, si trova e si vede. Oggi abbiamo strumenti straordinariamente E in questo caso si è visto oppure no? E in questo caso no, assolutamente, su quello dell'ignoto 1 dubbi non ce ne sono. Da quando cioè non c'è, non c'è contaminazione? No, assolutamente, non c'è, su quelli che sono più punti. Lei sa, sì, quando fa una repertazione trova tracce di DNA su diversi punti, sì, capito? Ce ne sono diversi che vengono tutti repertati, perché sì, ognuno di noi vive in un mondo di DNA. L'ultima domanda, professore, è quel DNA di ignoto 1, è la domanda che ho fatto all'inizio, da che tipo di campione proviene, da che parte del corpo, per farla molto semplice? Dagli inquirenti, da quello che sappiamo, perché poi io ho visto i profili, ho analizzato i calcoli statistici, non ho fatto tutte le analisi che le ho detto, le hanno fatto laboratori altamente qualificati per dire la loro provenienza, sembrerebbe che sia sangue, quindi io credo alle analisi che hanno dichiarato gli inquirenti. La ringrazio. Perché non ho stabilito questo, capito? La ringrazio. Però direi che su questo non ci sono dubbi. Grazie al professor Giuseppe Novelli, genetista, prego, rettore dell'Università di Tor Vergata, grazie per essere stato con noi, le auguro buona giornata. Carlo Signorelli, vicepresidente della Società Italiana di Igiene e presidente designato della stessa Società Italiana di Igiene, la saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, noi in realtà siamo andati un po' lunghi col professor Novelli, abbiamo pochissimo tempo, quindi io innanzitutto le chiedo qualche dettaglio sui dati che avete fornito ieri a proposito delle vaccinazioni, del calo netto delle vaccinazioni, un meno 25% per morbillo e rosolia. Naturalmente i dati non sono uguali in tutte le regioni italiane, per fortuna, abbiamo due segnali che sono preoccupanti. Da un lato il calo dell'adesione all'antinfluenzale, e questo avviene in quasi tutte le regioni italiane e ahimè anche in altri paesi europei. Eravamo vicini al 70% negli anziani, siamo scesi attorno al 50%, e quindi è un salto all'indietro che deve far riflettere, deve far prendere provvedimenti. Per le vaccinazioni dell'infanzia, fortunatamente non è così in tutte le regioni, senza voler adesso, abbiamo poco tempo. Sì. Volevo solamente un'indicazione generale, perché la mia idea era di ritornare su questo tema domani, magari con lei stesso. Sono le regioni più in difficoltà economica, con i piani di rientro in sanità, dove le situazioni sono più gravi. Allora, su questo ci torniamo, Novelli, perché qualche ascoltatore già, signorelli, perché qualche ascoltatore già ci scrive: ma io il morbillo ce l'ho avuto, che succede? Vi comunico che prima della scoperta del vaccino i morti ogni anno si contavano a milioni, soprattutto tra i bambini, e c'è il rischio che quando lo contragga una madre ci siano malformazioni per il feto e quindi per il bambino. Quindi è un tema importantissimo. Ed è il momento di Mario Platero. America, America, God shed his grace on thee. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Solo andata, è un po' che non facciamo una puntata dedicata a chi ha scelto di comprarsi un biglietto di solo andata per gli Stati Uniti, e dunque direi che soprattutto dopo la notizia della nomina di un italiano che anche lui ha preso un biglietto di solo andata, Luca Maestri, alla guida della divisione finanza di Apple Computer, avrà da sovraintendere alla bellezza di 167 miliardi di dollari di liquidità, valore di borsa 475 miliardi, cioè parliamo di valori che superano quelli di molti stati sovrani. Vorrei ripercorrere una storia di solo andata, diciamo così, accademico-finanziaria. Ho con me ai microfoni di America 24 Marco Magnani, Senior Research Fellow alla Harvard Kennedy School of Government a Cambridge in Massachusetts, il quale 3 anni fa lavorava a Mediobanca in Italia e dopo 10 anni di permanenza a Milano ha deciso di prendere questo biglietto di solo andata, di mollare la finanza e di passare all'accademia, ed è arrivato a Harvard. Ecco, lui era andato poi avanti e indietro. Quando si lavora, come dice Marchionne, dice: dove sono i quartieri generali? Cioè, ma i quartieri generali non sono né a Detroit né a Torino, sono su un aereo, perché poi si continua a viaggiare in continuazione a livello globale. Però certe scelte segnano poi dei passaggi. Per esempio, lo stesso Magnani era stato molti anni a New York in precedenza, lavorando con JP Morgan, lavorando dunque a Wall Street, e con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Magnani. Buongiorno. Beh, noi avevamo già fatto una chiacchierata sul suo libro, sul libro dedicato alle vacche sobre, cioè l'Italia si deve dare una mossa, perché sennò qua chissà dove andremo a finire. Ma perché non ci racconta invece della sua esperienza? Perché è proprio per queste vacche sobrie che molti italiani stanno prendendo questi biglietti di sola andata per andarsene non soltanto in America ma un po' dappertutto nel mondo. Il mio amore con gli Stati Uniti comincia in realtà molto tempo fa e dura ormai da oltre 27 anni. A 16 anni comincia con una borsa di studio di intercultura di American Field Service che mi invia negli Stati Uniti per un anno a studiare nella scuola superiore, a vivere in una famiglia. Quello è stato il primo giro. Il secondo è stato professionale, come lei ha ricordato, con 10 anni a JP Morgan lavorando in campo finanziario. Il terzo è stato questo più recente, invece in campo diverso, in campo più accademico, dove mi sono allontanato dall'Italia, ma per studiare l'Italia, per scrivere sull'Italia, e la Kennedy School, una scuola di Harvard dedicata appunto alla politica economica, agli affari internazionali, mi sembrava il posto ideale. Quindi un legame che dura da 27 anni con gli Stati Uniti, ma radici ancora molto forti in Italia. Ecco, lei però insomma è sposato, ha una famiglia, ha trasferito questa famiglia da Milano all'America. Ecco, non è un passaggio facile, ne avete parlato in famiglia, com'è andata? Ma diciamo che quando capitano delle opportunità se ne parla, però ci sembrava assolutamente un'opportunità interessante da tutti i punti di vista. Gli Stati Uniti sono un paese che offre ancora tantissimo, soprattutto quello che io ritengo che offre rispetto all'Europa è molta più mobilità sociale, cioè la consapevolezza che lavorando duro e facendo bene si può veramente così salire sull'ascensore sociale. Ecco, questo lei lo dice nonostante il suo collega Robert Reich abbia scritto un libro, This Equality for All, quindi dove dice un po' il contrario. Cioè, perché la verità è che negli ultimi 30 anni è diminuita molto purtroppo anche negli Stati Uniti la mobilità sociale, lo dice anche un altro illustre economista qui di Harvard che è Bob Putnam, che analizza l'aumento delle disuguaglianze e la diminuzione della mobilità sociale. Gli Stati Uniti erano un eccezionale laboratorio di mobilità sociale, si stanno europeizzando in questo, però ancora penso ci siano più opportunità rispetto all'Italia e rispetto al resto d'Europa. Ecco, ma lei a un certo punto appunto ne parla in famiglia, lei ha questa opportunità quindi di venire a lavorare a Harvard, questa è stata l'opportunità molla? Sì, l'opportunità è stata diciamo l'ambiente straordinario che è Cambridge in Massachusetts, che è la Harvard University, e anche quel personaggio che è Larry Summers, che tornava ad Harvard dopo un'esperienza nell'amministrazione Obama e che così mi ha dato la possibilità di affrontare un tema che mi stava molto a cuore, cioè di pensare alle prospettive di crescita dell'Italia nel medio-lungo termine. Qualcosa che avrei voluto fare da lungo tempo, che non sapevo quando e dove avrei fatto, e così i casi della vita ti portano poi alle opportunità. Casi della vita casuali? Cioè lei conosceva Larry Summers, avevate lavorato insieme? Perché io penso a chi ci ascolta oggi in macchina, che magari lavora in un'importante banca italiana, e dice ma io come faccio a farlo questo passaggio? Non è che mi bussano alla porta, cioè lei si è dato da fare, conosceva persone, l'aveva lavorato a Wall Street, ecco, conosceva Larry Summers, com'è andata? Ma io credo che le opportunità vengano sempre per un misto di diciamo fortuna, ma anche naturalmente di duro lavoro e di posizionamento e di contatti che sono stati conquistati faticosamente nel corso degli anni di lavoro. Larry Summers ha avuto modo di conoscerlo in varie circostanze, soprattutto inizialmente a una serie di conferenze organizzate dal World Economic Forum, dove lui era uno degli ospiti più importanti. Io ero semplicemente uno dei giovani che erano stati premiati, li chiamano Young Global Leader, e in questo scenario ho avuto modo di conoscerlo, vederlo per alcuni anni, condividere con lui alcune delle mie aspirazioni, e quindi i contatti sono importanti ma vanno anche coltivati, cioè la fortuna di incrociare le persone, di vedere un treno importante che passa, diciamo capita, poi bisogna riuscire a prendere quel treno, riuscire a sviluppare i contatti, a tenerli e soprattutto a prendere i consigli che vengono dati al momento giusto e a convertirli in azione. Magnani, scusi, io ho fatto due conti, ma lei insomma ha lavorato 20 anni in banca, 10 anni alla JP Morgan, 10 anni a Mediobanca, lavora, studiato in America, adesso è da 3 anni a Harvard, e tutto questo in 44 anni, lei ha 44 anni, ecco, cosa vede come sua prossima tappa o carriera? Ce n'è un'altra o vuole continuare a fare il professore? Ma io vorrei continuare a fare cose belle che mi piacciono e che mi stimolano intellettualmente, e possibilmente poter anche contribuire da vicino o da lontano al mio paese, che forse in questo momento è un po' in crisi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. I Led Zeppelin hanno annunciato una nuova edizione rimasterizzata dei loro primi 3 dischi. È solo un primo progetto, devo dire, grandissimo gruppo. Dedichiamo a loro la canzone del giorno dei Led Zeppelin, Stairway to Heaven. She gets there, she knows. If the stores are all closed, with a word she can get what she came for. And she's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have to mean. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. È tutto anche per effetto giorno. I ringraziamenti: Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, come sempre tutta la redazione di Radio 24 per il lavoro. I nostri contatti: effetto giorno a radio24.it, il mio account Twitter, Simone Spezia, la nostra pagina Facebook. Ci risentiamo domani alle 13 con la trasmissione, come sempre, e tra un attimo, come sempre, con GR24.